1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Le 7:18 minuti e come dico ogni lunedì, forza, forza, schema Allegri a palla, dai, dai, che è la 77esima settimana decisiva per la riforma elettorale, l'abolizione delle province è già cominciata, è già nel vivo. E allora noi parleremo di questa legge di stabilità, le regioni che si arrabbiano, Renzi che ieri da Barbara Russo ha detto, vabbè. Gli passerà alle regioni. Parleremo di questo, parleremo se volete anche della novità annunciata agli 80 euro, il bonus alle neomamme dal 2015. Avremo ospite Mario Giordano, direttore del TG4, avremo ospite Matteo Ricci, vicepresidente del PD, e poi anche altri ospiti, questo dalle 8:15 alle 9. Ora andiamo a sfogliare i quotidiani. In questo lunedì 20 ottobre i titoli, a parte il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, che titola sul piano antievasione, si parte da spesometro e IVA. I titoli, dicevo, sono quasi tutti con questo, su questo annuncio di Renzi, ieri da Barbara D'Urso. Renzi, 80 euro alle neomamme, così il Corriere della Sera. Ma è lo stesso identico titolo, lo troviamo anche sul Messaggero. La Stampa, manovra, Renzi a sorpresa, bonus di 80 euro per i figli. Il Secolo, Renzi, 80 euro alle neomamme. Come vedete, questi sono i classici annunci che conquistano proprio i titoli in automatico. Repubblica, invece, cittadinanza più rapida per i bambini stranieri, bonus alle neomamme. L'apertura dunque è più su un altro annuncio che ha fatto ieri Renzi. Giornale invece, usare il bancomat non è più un reato, chi prelevava contanti doveva dimostrare nel dettaglio a chi erano andati i soldi, se non ci riusciva era considerato per legge un evasore. Finalmente ora la Corte Costituzionale ha detto basta, su questo apre il Giornale. Voglio però già iniziare a leggere qualche articolo perché ce ne sono molti interessanti, a cominciare dalle vostre tasse. Avete sentito anche nel giornale radio le tasse dimenticate dei comuni. Gianni Trovati racconta come gli enti locali si perdono le tasse così, per distrazione, si dimenticano o non riescono evidentemente a incassare le tasse. E c'è tutta la classifica del tasso di riscossione. Pensate, a pagina 6 del Sole 24 Ore, Gianni Trovati racconta che a Vibo Valentia ogni anno arriva davvero nelle casse del comune solo il 43,5% delle tasse e delle tariffe che la Giunta e il Consiglio mettono a bilancio. 43,5%. Più o meno lo stesso accade a Trapani, Palermo e in quasi tutti i capoluoghi siciliani e calabresi, ma anche a Campobasso, Potenza e Latina. A Napoli invece gli incassi reali nel corso dell'anno arrancano 56,6%. A Roma si sfiora il 60%, a Milano si sale verso il 68%, 68,3 per la precisione. Su fino a Bergamo, Bolzano, Reggio Emilia, dove tutti gli anni più dell'85% delle entrate si presenta puntuale alla cassa. Queste sono le elaborazioni che trovate sul Sole 24 Ore, città per città, capoluogo per capoluogo, quanto si riesce effettivamente a incassare delle tasse che giunta e consigli comunali approvano. Si va da un 85% in alcuni paesi dell'Italia al 43,5%. C'è un'interessante pagina sul Corriere della Sera di Orsola Riva dedicata alla scuola. Sapete che il piano del governo Renzi è quello di stabilizzare 140.000 docenti assunti entro il 2015. Sono i vincitori e i idonei del concorso Profumo del 2012. Insieme a loro, appunto, questi 140.000 insegnanti. Ma che cosa interessante di questa pagina del Corriere? Che il Corriere della Sera va a esaminare chi sono questi insegnanti. Il titolo è già emblematico. Nuovi prof, uno su cinque non insegna da 3 anni. cioè uno su cinque di questi 140.000 che si vogliono stabilizzare non insegna da 3 anni. Ma perché? La spiegazione è molto semplice: sono quelli che hanno vinto l'ultimo concorso anni fa, molti dei quali hanno la media età di costoro è di 41 anni, sono persone che hanno lavorato qualche anno, supplenze, no? Col classico sistema precario della scuola, e quindi molti di loro si sono scoraggiati e hanno abbandonato nel frattempo le graduatorie, e comunque l'età media è appunto di 41 anni. Iniziamo col dire chi non sono insegnanti freschi di laurea e abilitazione, perché le graduatorie sono chiuse dal 2007. I più giovani sono i maestri laureati in scienze della formazione primaria, ma il grosso è rappresentato dai vincitori del penultimo concorso, parliamo dunque del 99, e dagli abilitati di vecchio conio, SIS e abilitazioni riservate, età media 41 anni, meglio dei docenti di ruolo, ma non certo un'iniezione di giovinezza, tanto che il Corriere della Sera si pone questa tematica, la questione delicatissima è che il diritto maturato da tutti costoro, precari della scuola, non deve entrare in collisione col diritto altrettanto importante dei nostri ragazzi a un'istruzione di qualità e al passo coi tempi. Quanti di questi prof iscritti nelle graduatorie possiedono, per esempio, competenze di informatica, competenze di inglese che sono richieste dalla legge Profumo per essere ammessi al concorso a cattedra? Moltissimi candidati all'ultima prova nazionale sono stati esclusi proprio perché non avevano passato la batteria di test preselettivi incentrati, oltre che sulla logica e la comprensione del testo, proprio su informatica e conoscenza di una lingua straniera. Dunque, l'allarme, neanche tanto velato, è questo: non è che si vogliono stabilizzare 140.000 docenti, molti dei quali però sono un po' in là con l'età, non sono freschi di laurea e magari dal punto di vista dell'insegnamento e delle qualifiche non sono proprio i più adeguati per una scuola veramente del futuro. Beh, interessante questo dibattito lanciato dal Corriere della Sera. Come interessante è la ipotesi che si profila sul Messaggero per quel che riguarda la vicenda ormai dimenticata dei Marò. Vi ricordate? Ormai sono quasi passati 3 anni. Certo, uno dei due Marò, quello che è stato Massimiliano Villatorre, vittima di un'ischemia, si trova in Italia, ma a gennaio dovrà tornare in India, a meno che la situazione non si sblocchi. Ebbene, il Messaggero con Marco Ventura racconta che è nata un'ipotesi abbastanza clamorosa di scambio di prigionieri. Questo è il titolo: Marò, ipotesi scambio di prigionieri. Per chiudere la vicenda, l'Italia potrebbe consegnare 18 marinai indiani catturati su una nave carica di droga in cambio del ritorno dei Marò. Certo, lo stesso Messaggero racconta che non sarebbe una soluzione onorevole mettere sullo stesso piano due fucilieri del San Marco e 18 trafficanti di droga. Roma però cerca di non urtare la suscettibilità indiana, allo stesso tempo il non alzare la voce ha prodotto finora risultati modesti. Sta di fatto che si continua a lavorare, il negoziato c'è, ma non si vede. Corre questo filo tra Palazzo Chigi e l'ufficio del primo ministro indiano Modi, ma non si sblocca allora l'ipotesi del Messaggero che si possa sbloccare attraverso questo incredibile scambio di prigionieri. Intanto continuano le contestazioni per il sindaco di Genova, Marco Doria, che è stato pizzicato a Courmayeur sabato a cena in un ristorante, e come racconta Marco Raffa sulla Stampa, a Courmayeur dopo l'alluvione, critiche al sindaco di Genova. Immaginate la scena: il sindaco Doria sabato sera era con la moglie e i figli in un ristorante a Courmayeur. A un certo punto è stato contestato da un cliente del locale che lo riconosce, si alza, va da lui e lo rimprovera. Lei è qui mentre Genova soffre per le conseguenze dell'alluvione, raccontano le cronache che il sindaco non ha risposto, mentre la moglie replica alla sconosciuta contestatrice: si vergogni lei, io sono libera di portare i miei figli dove voglio. Controreplica della cliente: lei sì, ma non il sindaco di Genova. Vedete che i cittadini poi si incazzano e contestano così il sindaco di Genova, che era sabato in un ristorante a Courmayeur, dove tra l'altro il proprietario del ristorante dice è nostro cliente molto molto spesso. Ma siamo al momento del premio Mani sul volante. Se state guidando, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata: se siete in moto, mani sul manubrio e tazzine del caffè bollente da appoggiare per qualche secondo, perché come racconta il Messaggero con Claudio Marincola, l'ultima mossa del CNEL. Sapete quell'ente che deve essere cancellato? Il CNEL, prima di chiudere, assume. Nella legge di stabilità abolite le indennità del presidente dei consiglieri da gennaio e, come si chiede il Messaggero, fareste un pieno di benzina all'auto che state per rottamare? Il no è scontato per tutti, ma al CNEL non tutti la pensano così. Finito su un binario morto da quando il Senato ne ha decretato la fine, l'ente destinato a scomparire, come scritto nel DDL di riforma costituzionale che metterà fine al bicameralismo, nell'attesa a chiede di andare avanti come se nulla fosse e B fa andare avanti un concorso per assumere nuovo personale, l'unico modo per imbarcare gli ultimi precari storici rimasti fuori, un salvataggio in extremis. Ma non è finita, racconta il Messaggero, a dicembre verranno pagati anche i premi di produzione, una delle tre voci dello stipendio, ai dirigenti. Come commenta il Messaggero, meraviglioso. Io sono in ogni luogo, io sono dentro di voi, sono dentro ognuno di voi che ascoltate. Guardatevi dentro e mi troverete lì. E io vi saluterò. Per me, la rassegna stampa di Alessandro Milan è una cagata pazzesca! Questo è uno dei migliori. Com'era, 96 minuti di applausi. Va bene, grazie, ti abbraccio, caro amico ascoltatore, razza di debosciato che non sei altro, starai dormendo. E allora continuiamo con la lettura dei giornali, ricordando che ieri Renzi è andato da Barbara D'Urso. Tutti i giornali fanno notare la chilometrica intervista, io non ho visto, ma pare sia durata parecchio, con l'annuncio che ha catturato i titoli di prima pagina di tutti i giornali oggi, ed è quello degli 80 euro per tutti i mesi, ovviamente 80 euro al mese per 3 anni alle neomamme, questo a partire dal 2015. Racconta Marco Galluzzo a pagina 6 del Corriere della Sera. La Francia d'altronde cosa fa? Dà un 5% del suo PIL alle politiche familiari. In Gran Bretagna il primo figlio vale 100 euro mensili, il secondo 164. In Germania l'assegno che ricevono i genitori dura fino al 18° anno di vita dei figli. Allora, con l'annuncio di ieri, Renzi ha provato in qualche modo a ridurre il divario che in materia di maternità lo divide dagli altri paesi europei. 80 euro a figlio per le famiglie per i primi 3 anni di vita del bambino. Come racconta il Corriere, dettagli ulteriori al momento non ce ne sono. Berlusconi provò una cosa simile, fu un una tantum. La legge di stabilità invece stanzia 500 milioni annui, istituisce un fondo che ha carattere permanente, sembra che il contributo triennale sarà dato a tutte le famiglie che hanno un reddito sino a 90.000 euro. Quanto costa tutto questo? Costa appunto 1,5 miliardi. Prevista una spesa annua di 1,5 miliardi. Ecco, la spesa però è annua, cioè non i 500 milioni per il fondo famiglia nella legge di stabilità. Secondo la stampa, il dato è citato a pagina 3, l'articolo di Grazia Longo, la spesa annua per lo Stato in realtà sarà di 1,5 miliardi. Soldi a tutti, anche alle immigrate, purché sotto il reddito di 90.000 euro. Il contributo si potrà sommare a quello per i lavoratori a basso reddito. La sorpresa dunque del Premier sugli 80 euro del bonus bebè è di fatto prevista dall'articolo 13 della legge di stabilità, al fondo famiglia la dotazione di 500 milioni di euro annui. Il conto però è bello fatto. In Italia, dati Istat 2013, sono nati 514.000 bambini. tra l'altro al minimo storico. E se questi dati venissero confermati, lo Stato per versare 80 euro per 12 mesi a ogni mamma dovrebbe far fronte a un'uscita di circa 493 milioni di euro per il 2015. La somma però è destinata inevitabilmente a lievitare. 500 milioni del 2015 raddoppieranno nel secondo anno, poiché ai neonati del 2015 si aggiungeranno quelli del 2016 e triplicheranno al terzo, salendo a 1,5 miliardi. In tutto dunque 3 miliardi in tre anni. Dunque se 3 miliardi in tre anni la spesa annua è di 1 miliardo. Però dal 2018 tutto dovrebbe stabilizzarsi con un'uscita costante di 1,5 miliardi. Nel 2018, siccome si sommano ogni anno quelli nati nuovi e in più quelli precedenti, alla fine dei tre anni la spesa sarà di 1,5 miliardi l'anno, sempre che il ritmo delle nascite sia quello dell'ultimo anno passato. Chi critica molto, devo dire che non ci sono grandi interviste, forse la politica è rimasta un po' spiazzata e anche i giornali, non ci sono grandi interviste su pro e contro. Chi critica è solo Giulia Bongiorno, che peraltro è un po' fuori dalla politica, intervistata da pagina 2 e 3 del Secolo XIX, dice: è un bonus preistorico e demagogico, ciò che serve sono asili e lotta alle discriminazioni. Addirittura, dice Giulia Bongiorno, Renzi ha una visione della donna mussoliniana, permettetemelo di dire, intanto perché parla di bonus alle mamme, mentre di un figlio si occupano entrambi i genitori che sono madre e padre, oppure di famiglie mancano tutte le famiglie monogenitoriali. Insomma, per questa è una visione un po' preistorica della donna e mi ha colpito molto in uno come Renzi. E poi dice Giulia Bongiorno, bisognerebbe investire in più in asili, in welfare. Comunque vedremo nei prossimi giorni se ci saranno reazioni a questi 80 euro. Certo, intanto c'è reazione alla questione di Renzi, che si manifesta ancora una volta in un programma Mediaset dopo essere stato da Del Debbio oggi, ieri appunto da Barbara D'Urso, come racconta Enrico Mentana, direttore del TG della 7, intervistato dal Fatto Quotidiano a pagina 3. Il popolo di Berlusconi ha detto: è uno di noi. Mi ha colpito soprattutto per la prima volta un'intervista in cui gli si dà del tu. Si dà del tu al presidente del Consiglio, anche se il contesto è una trasmissione non giornalistica. Comporta che tutto ciò accorcia le distanze con lo spettatore cittadino. La questione di Renzi troppo in TV è reciproca. Lui deve presentare i provvedimenti, le trasmissioni invece lo chiamano perché alza gli ascolti e fa la differenza. Così dice Enrico Mentana. Ieri in TV è andato anche il ministro dell'economia Padoan, che ha rilanciato una cifra, per la verità lanciata da Lucia Annunziata e da lui confermata, dicendo potrebbe essere gli 800.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni. 800.000 posti di lavoro, così Padoan fa promesse, anche Padoan fa promesse, questo è il titolo della stampa pagina 8, 800.000 nuovi posti di lavoro grazie agli sgravi previsti alla legge di stabilità. Tra l'altro Padoan ha anche parlato della Unione Europea. Ma a proposito di posti di lavoro, chissà se Padoan pensa a ciò che scrive il Quotidiano Nazionale a pagina 5, ecco l'elenco se volete, come racconta Alessandro Fiesoli, dei posti di lavoro più assurdi che ci sono nel mondo. Spolveratore di ossa di dinosauri. Ebbene sì, in un museo negli Stati Uniti. In Sudafrica cercano babysitter per struzzi. Cercano anche il guardiano dell'isola di Hamilton, paradiso da sorvegliare e monitorare con un blog per 6 mesi. Cercano in Australia i palombari ricercatori di perle. Pagano fino a $1,300 al giorno. E che diavolo è? Cioè, ti pagano in perle? Non lo so. Oppure in America c'è da sbizzarrirsi, c'è l'annusatrice di odori e profumi a Cincinnati, l'assaggiatore di cibo per cani e gatti, l'assaggiatore di cibo per cani e gatti, questa me l'aveva raccontata anche Leonardo Manera. Poi c'è la figura del consulente di nome per bambini, se non volete dare quei nomi bizzarri e assurdi. C'è la figura del consulente di nomi per bambini. E poi c'è il trasportatore di iceberg. Iscrivete all'International Ice Patrol, organizzazione compartecipata anche dal governo italiano per trasportare l'iceberg, così il Titanic non affondava. Questi sono i lavori più pazzi del mondo, chissà se a questi si riferiva Padoan. No, non si scherza su queste cose. Sicuramente, comunque Padoan ha annunciato 800.000 posti di lavoro, mentre rilancia in un'intervista al Corriere della Sera oggi il consigliere economico di Renzi, l'onorevole Gutgeld, che dice più che 800.000 potrebbero essere anche 850.000 i posti di lavoro. Così Yoram Gutgeld, intervistato da Enrico Marro, spiega tutta la manovra. Spiega come salirà 8.060 euro il tetto per gli sgravi sulle assunzioni, spiega che metteremo online tutte le spese di regioni, comuni e province e poi annuncia Gutgeld i tempi sono maturi anche per la tassa unica sulla casa, mettendo insieme IMU, TASI e TARI. La semplificazione delle tasse locali è sacrosanta, dice Gutgeld. Siamo reduci da 2 anni di confusione totale. Il nostro impegno per la tassa unica verrà realizzato nei prossimi 2 mesi. Vedrete che lo faremo. Così Yoram Gutgeld, consigliere economico di Renzi, al Corriere della Sera. 2 mesi per la tassa unica sulla casa, scadenza che giro a Mauro Meazza. 2 mesi, caro buongiorno, Mauro. Buongiorno Alessandro. Quanto fai in settimane? Perché così sono 8 settimane. Siamo più abituati. Perché siamo più abituati con le settimane decisive. Possiamo a un certo punto cominciare con la decisività. Ma tra queste assunzioni ci sono anche quei mestieri che citavi prima, non so. Illustratore di giornali alla radio, espositore di giornali alla radio. Sì. Ma fisso così, cioè ti metti fuori da una radio e ti metto sui giornali. Sì, o anche, non so, ricettore di telefonata dall'illustratore di giornali alla radio, perché forse così potrei anche io trovare un posticino. Senti, noi intanto facciamo il conto sul Sole 24 Ore di oggi dei vari bonus previsti o annunciati nella legge di stabilità sulle assunzioni, appunto. Mm-hmm. L'assunzione con il bonus della legge di stabilità, quello che è previsto per i giovani tra 18 e 29 anni, per le donne, per chi ha più di 50 anni, per gli apprendisti, per capire dov'è che sono i vantaggi. Ovviamente non c'è una classifica finale, perché dipende dalle varie situazioni che vengono confrontate. Diciamo che l'apprendistato sembra essere comunque il più appetibile dei contratti finora agevolati. Questo sul Sole 24 Ore. Poi naturalmente, caro, è sempre tempo di ravvedimento. Vorrei che tu Io mi ravvedo. Stai preparandoti al ravvedimento. Questo è molto importante, anche perché sulle pagine di Risparmio e Famiglia parliamo di indebitamento, di prestiti alle famiglie. C'è stata una frenata sostanzialmente anche nei prestiti, non poteva essere altrimenti, però talvolta alcune spese sfuggono al fisco e allora si cercherà di incentivare, di migliorare l'uso dello spesometro, ma avremo modo di parlarne, così come anche del tuo ravvedimento. E poi hai visto che i comuni non riescono a riscuotere buona parte delle imposte. Ne abbiamo parlato, percentuali ben basse in alcuni casi. Bene, allora ne dissi in idem, come direbbero gli avvocati, cioè non torniamoci sopra, ma sapevatelo, come invece scrivono su internet. E tutto ciò premesso, ti dico che domani con il Sole 24 Ore daremo uno splendido rapporto dedicato ai motori e alle auto. E perché te lo dico? Perché è tornato il campionato! Ah no, non per quello. No. Scusa, mi sono lasciato prendere dalla Dolce Verona, dove abbiamo vinto. All'ultimo minuto ti lancio il traffico. Alessandro Milan, il cilentano dell'informazione. Allora, alle 7:48 minuti siamo qui. Per quel che riguarda la legge di stabilità c'è anche il tema del rapporto con l'Unione Europea. Ieri Padoan da Luce Annunziata ha detto: siamo in regola e l'Unione Europea non ci boccerà, ma Repubblica fa l'articolo più interessante, il retroscena firmato Alberto D'Argenio a pagina 6. Bruxelles perdona i conti dell'Italia, ma è pronta una lettera. Dateci chiarimenti. Repubblica anticipa che secondo Bruxelles è pronta una lettera che verrà spedita tra domani e mercoledì da Bruxelles, con una richiesta di chiarimenti che la Commissione europea vorrà mandare per aprire formalmente quel negoziato che nelle speranze del governo italiano dovrebbe chiudersi senza troppi danni. Convivono due anime a Bruxelles, racconta Repubblica. Una è quella del presidente uscente della Commissione, José Manuel Barroso, che vorrebbe bocciare sonoramente la manovra, rimandandola al mittente con la richiesta di una serie di modifiche, intenzione che lo stesso Barroso ha comunicato la scorsa settimana a Renzi in una telefonata decisamente burrascosa. Ma il pressing di Juncker, dunque il successore di Barroso, è intenzionato a gestire il caso italiano in modo più soft e sembra aver avuto effetto la linea Juncker. Almeno questa è l'impressione di questa lettera che verrà spedita, anticipa Repubblica, e chiederà chiarimenti ma non conterrà le premesse di una sonora bocciatura. Staremo a vedere. Ieri Renzi ha lanciato, e Repubblica lo mette a pagina 2-3, anche il tema del cosiddetto ius soli temperato, cioè, per tradurre, come si otterrà la cittadinanza per i figli degli stranieri, cittadinanza italiana. Renzi vuole ridurre quel processo, intanto cancellare lo ius sanguinis, cioè la cittadinanza che si trasmette per sangue, da italiano a italiano. Vuole invece legarla allo ius soli, cioè a stare alla residenza sul territorio, dicendo basta magari chiudere un ciclo scolastico e il figlio dell'immigrato può richiedere la cittadinanza italiana. Dunque arrivare a una velocizzazione dei tempi per la richiesta di cittadinanza per i figli degli immigrati. In tutto questo, il resto della politica, c'è Berlusconi che cerca di rinvigorire l'opposizione. La notizia più interessante data da Berlusconi è questa: basta, la politica in TV è morta. Nessuno guarda più i talk, nessuno legge più i giornali, nessuno guarda più i telegiornali, men che meno i pastoni politici. E quindi Berlusconi dice bisogna tornare al porta a porta, bisogna tornare al contatto diretto con gli elettori. Questa è la nuova Forza Italia lanciata da Silvio Berlusconi. Ma Berlusconi è preoccupato soprattutto da che cosa? Beh, questo lo racconta Repubblica con Claudio Tito. È la nuova sfida che gli lancia Sky, è il tema delle TV. La sfida di Sky a Mediaset. Rupert Murdoch è pronto a lanciare dal 2015 canali gratis e in chiaro, alcuni canali gratis e in chiaro. Berlusconi è già in trincea, secondo Repubblica, Renzi ci difenda. Insomma, racconta Claudio Tito, la pax televisiva sta per saltare. In questi anni la tregua era stata firmata da Rai e Mediaset, poi con gli anni si è aggiunta Sky, ma nel 2015 tutto cambierà, anzi sarà rivoluzionato, anche per il possibile trasferimento in chiaro dell'emittente, ora a pagamento, di Rupert Murdoch. Tra l'altro arriva anche Netflix, il nuovo competitor, campione della TV su internet, già sbarcato in Germania e in Francia, che ora si prepara a invadere anche il nostro paese con un'offerta sconfinata di film e canone piuttosto basso. Insomma, tutto ciò preoccupa per quel che riguarda i conti della pubblicità Mediaset. E invece è la nuova sfida televisiva che si intreccerà certamente anche sulle sfide politiche. La cronaca, c'è tutto e molto del sinodo, se volete, ovviamente, temi molto molto ampi e molto complicati che non riesco a leggere. C'è purtroppo un episodio di cronaca nera terribile a Milano. Andrea Galli e Cesare Giuzzi raccontano: uccide la fidanzata strangolandola, e due mesi fa la stessa donna era stata salvata dai vicini. Il delitto è avvenuto in centro a Milano, in via della Commenda, all'angolo con via Ortis, siamo in zona Porta Romana, una delle zone, uno dei salotti della vecchia Milano, della Milano Inn, diciamo così. Ebbene, due mesi fa questa ragazza si era salvata rifugiandosi nell'androne di un condominio, abbracciata da alcuni vicini per le continue risse, anche a bottigliate, che facevano i due. Ieri questo uomo l'ha strangolata e poi ha chiamato un amico dicendo: l'ho uccisa, adesso cosa faccio? Alla fine è stato ovviamente rintracciato dalla telefonata e arrestato dalle forze dell'ordine. L'ennesimo femminicidio. Va bene, siamo quasi in conclusione. Vi faccio notare che io non dormo da 3 giorni per sapere se Santoro e Travaglio faranno la pace. 3 giorni che non dormo. E oggi un bel Cairo, Urbano Cairo, su Repubblica dice: tra Santoro e Travaglio spero che si ricomponga, ma scelgo Michele perché non amo le risse in TV. Io non dormo da 3 giorni. Faranno la pace Santoro o Travaglio, chi lo sa. Scopriremo giovedì. Ma vince il premio La Carta Costa un'intera pagina della Stampa, Roselina Salemi, che racconta il dramma di chi non sa buttare via e nelle case si ritrova di tutto: vecchi anfratti con libri, scartoffie, magliette. Dovete seguire i corsi di Marie Kondo, Marie Kondo, i corsi del gran riordino, e porvi queste domande: conservare questa maglia o questo paio di scarpe mi rende felice? Ma chi se ne frega!